sentirai, sarò lontano dal tuo mondo. Come un satellite dimenticato nello spazio, ti guarderò come si guardano le stelle a San Lorenzo. Ma Dio quant'era bello quando cadevi sul mio letto. Pensarti in quei secondi che passavano in silenzio, quanto ti è amata, lo so, potevo dirtelo. Me lo ripeto spesso, 100.000 volte ti ho rivista in un replay, in un film che dentro agli occhi mi ricorda un po' di noi. All'amore che mi hai dato per cercare di salvarmi dopo i titoli di coda quando era troppo tardi. E non si riesce mai a difendersi dal tempo, come le foglie cadono e si perdono nel vento. Siamo ricordi che si cercano in eterno. E Dio quant'era bello trovarsi nello stesso letto. C'è ancora il tuo profumo nel mio appartamento. Quanto ti è amata, lo so, volevo dirtelo. Me lo ripeto ancora adesso, 100.000 volte ti ho rivista in un replay, in un film che dentro agli occhi mi ricorda un po' di noi. All'amore che mi hai dato per cercare di salvarmi dopo i titoli di coda quando era troppo tardi. 100.000 volte ho ceduto alle paure, all'eterna dipendenza di legarmi a un altro cuore. Tornerei tra le tue braccia anche solo per un giorno, ti direi quanto mi manca aspettare il tuo ritorno. Aspettare il tuo ritorno. Ho ceduto alle paure, all'eterna dipendenza di legarmi a un altro cuore. Tornerei tra le tue braccia anche solo per un giorno, ti direi quanto mi manca aspettare il tuo ritorno. 100.000 volte ti ho rivista in un replay.